Mi hanno detto che devo parlare qui perché viene registrato, quindi mi sforzo anche se sento la mia voce in un modo strano. Allora, io devo presentare Lucio Giudice Andrea, che però ritengo non abbia bisogno di grandi presentazioni in quanto è un giornalista particolarmente esposto all'attenzione pubblica, visto che lavora per la sede RAI di Bolzano. Due parole forse su di me, che non sono così noto come lui, forse anche devo giustificare la mia presenza qui, perché se no dice perché c'è questo signore che presenta una persona più famosa di lui. Io mi chiamo Gabriele Di Luca, sono un concittadino di Lucio Giudice Andrea, anche se non da molto, perché io abito a Bressanone da 9 anni. Ho varie attività. Sono insegnante di seconda lingua in una scuola professionale di Brunico, faccio il traduttore e poi scrivo per il quotidiano Il Corriere dell'Alto Adige. Questo basta per quanto riguarda la mia persona. Veniamo al libro, cioè al tema del nostro incontro di stasera. Dobbiamo presentare questa opera che si chiama Spaesati, Italiani in Südtirol. Per iniziare io vorrei suggerirvi un'immagine, anzi due, una letteraria, visto che siamo in una biblioteca, e un'altra tratta dalla cronaca recente. Quella letteraria è una citazione di Kafka, particolarmente efficace, molto, molto bella per descrivere un'opera letteraria. Kafka ha scritto in un frammento che un libro deve essere come un'ascia per il mare ghiacciato dentro di noi, che rompa il mare ghiacciato dentro di noi. Questo significa che un libro, per avere un qualche valore, deve incidere nella mente, negli affetti di chi lo legge, possibilmente modificando i suoi pregiudizi, le sue visioni pregresse e la sua attitudine generale. Secondo me, questo è un libro che può essere inteso in questo senso kafkiano come un'ascia per il mare ghiacciato dentro di noi. L'altra immagine è tratta dalla cronaca recente, avrete sicuramente visto in televisione oppure anche letto del crollo della Cima 1, di un frammento della Cima 1 in Val Fiscalina. E questo, secondo me, è una buona metafora politica. Per certi versi, parlando del gruppo linguistico italiano. Anche il gruppo linguistico italiano è un po' come una cima di una montagna, non particolarmente grossa, non particolarmente consistente, che sta però subendo da diverso tempo un processo di sgretolamento. Poi dallo sgretolamento viene fuori la polvere. In Val Fiscalina abbiamo visto molta polvere, abbiamo sentito il racconto di molta polvere, addirittura l'Alto Adige è in un titolo un po' forzato, ha detto questo è il nostro 11 settembre. E a proposito di polvere, Klaus Gatterer, il famoso storico di Sesto, quindi di lì vicino, una volta ha definito gli italiani polvere, cioè non un popolo compatto, ma gli italiani del Sud Tirolo, un pulviscolo, perché sono polvere di individui, sì, polvere di individui. Questa è un'immagine molto suggestiva. Fra parentesi, la polvere crea oscura la visibilità. Ecco, forse questo libro di Giudice Andrea può essere inteso come il tentativo di guardare dentro la polvere per vedere che cosa origina questo fenomeno e come è possibile diradarlo, come è possibile dire qualcosa di chiaro su cosa. Io adesso espongo molto in breve il contenuto del libro, poi do la parola a Giudice Andrea che focalizzerà con maggiore precisione quello che intende dire. Il libro è costruito in un modo, ha un'architettura molto, molto interessante. Ma forse il tema al quale tutti puntano quando prendono in mano il libro di Giudice Andrea, si trova collocato alla fine, cioè nel capitolo finale si parla di quello che generalmente quando si parla degli italiani in Alto Adige più si vorrebbe parlare o più si avrebbe il desiderio di capire cosa sta succedendo, ovvero del disagio. È posto alla fine e io intendo questo libro, ho inteso questo libro leggendolo come una vera e propria fenomenologia del disagio, cioè Giudice Andrea ha cercato di comprendere questo fenomeno, di ricercarne le origini e di vedere come si è originato, quale valenza, quale significato ha. E per farlo è partito da dall'analisi di un periodo di cronaca, praticamente di cronaca politica, dalle elezioni, per l'elezione del Consiglio Provinciale del 2003 fino alle politiche del 2006. E in questo periodo, in questo spazio, si collocano tutte le analisi successive. I capitoli più o meno toccano tutti i temi, tutti i nodi più rilevanti e più interessanti per comprendere il fenomeno del disagio. Si va da un capitolo iniziale in cui lui molto opportunamente cita un libro famoso scritto da uno scrittore che è Sebastiano Vassalli, che più o meno alla metà degli anni Ottanta pubblicò Sangue e Suolo, che è un libro che ha marcato molto l'immagine dell'Alto Adige, sia all'esterno ma poi anche all'esterno. Lui parte da questo libro, ne effettua un démontage, una sorta di decostruzione, e mostra che lì si annidano molti dei pregiudizi prevalenti con i quali gli altoatesini comprendono se stessi e dunque pensano a se stessi, al proprio ruolo all'interno del nostro contesto, della nostra anche autonomia per certi versi. Poi va avanti, c'è un denso, ricco e secondo me anche problematico capitolo dedicato alla scuola. La scuola è ovviamente, e quindi la scuola, l'insegnamento delle lingue è uno dei temi più caldi da sempre in questa provincia, che ritmicamente anche punteggia la cronaca politica, non soltanto la cronaca pedagogica, anche perché la cronaca pedagogica quasi non esiste. Sul tema della scuola sarebbe interessante che io mi diffondessi, ma non lo faccio perché è un tema al quale sono talmente legato che poi ruberei tutto lo spazio e non lo voglio assolutamente fare. Lasciando la scuola, c'è un capitolo nel libro molto interessante anche dedicato al Langer e ai langheristi. Alexander Langer è stato forse il politico, l'intellettuale sudtirolese che maggiormente ha cercato di tematizzare il problema della convivenza, proponendo anche soluzioni dirompenti. E quindi attraverso l'analisi della filosofia, del pensiero di Langer, Giudice Andrea ci parla dei langheristi, che potremmo definirli il coté italiano di quello che sono stati i Verdi. Però anche su questo lui stesso poi approfondirà il coltello, insomma, nella piaga. Poi il corpo centrale del libro invece è eminentemente politico, dedicato alle aree, quindi la destra, la sinistra, il centro, come tutte le aree politiche tradizionali hanno affrontato la questione sudtirolese, e lui mostra, sono anche le pagine forse più polemiche, più pamflettistiche, mostra come tutti i partiti italiani, nessuno escluso, abbiano lasciato maturare nel tempo, dalla questione, abbiano lasciato affiorare nella questione sudtirolese una questione altoatesina. Cioè, quindi, mentre storicamente la questione sudtirolese trovava una sua soluzione, a livello appunto anche sì, istituzionale, parallelamente questo è il centro proprio polemico del libro, la classe politica italiana non è riuscita a far comprendere agli altoatesini quello che stava succedendo. E non riuscendo a farlo comprendere, è nato poi il problema che poi è diventato sempre più, si è sempre più calcificato fino ad assumere, diciamo, la forma del disagio. Altro capitolo estremamente denso e secondo me molto toccante è quello dedicato a quelle poche figure che nella storia recente, opinionisti, osservatori, ma anche politici, hanno invece cercato di proporre quello che potrebbe essere un discorso alternativo sull'essere degli altoatesini. E lui si rifà al questore Renato Mazzoni, a Indro Montanelli, a Salvemini, a Cossiga, non cita. Qui potrei mettere più carne al fuoco, Umberto Segre oppure Luzzatto. Sono poche figure di intellettuali, di politici che hanno cercato di avvertire, ecco, di avvertire gli italiani o gli altoatesini che quello che si stava producendo sarebbe stato estremamente negativo. Cioè che quindi era possibile in realtà leggere l'evoluzione politica della nostra provincia con altri occhi. Non sono stati molto capiti, purtroppo, e quindi possiamo dire che si è reso necessario un surplus di critica che troviamo esemplificata nel libro Spaesati. Vengo alla fine, facendo anche un po' di autocritica. Io recensendo il libro per il Corriere dell'Alto Adige, l'ho recensito 2 volte, poi con Lucio è nato anche un carteggio abbastanza interessante, abbastanza approfondito. Io all'inizio non avevo capito bene il libro, nonostante l'avessi letto 2 volte con estrema attenzione. Non l'avevo capito bene perché mi sembrava un libro tutto sommato squilibrato, cioè non voglio dire negazionista dei problemi in campo, però squilibrato, in cui questa parte, diciamo, dell'autocritica e della responsabilizzazione degli italiani offuscava una situazione invece oggettiva di difficoltà che, a mio parere, ma anche a parere poi di Lucio Giudice Andrea, non è da caricare soltanto sulle spalle degli italiani. C'è un capitolo finale che si chiama Il nemico, nel quale, se qualcuno di voi ha la pazienza di arrivarci, ma quando ci arriverà, ci si arriva molto facilmente perché il libro è scritto con uno stile molto agile, qui il quadro diventa molto oggettivo e viene abbozzato, diciamo, un'analisi strutturale, sistemica del problema altoatesino. La fine, che non vi anticipo perché poi la partenza probabilmente di quello che dirà Lucio, è centrata sul disagio, sulla fenomenologia del disagio e con una formula, lui parla del disagio come il risultato di una colonizzazione fallita, no? Quindi mette l'avventura italiana in Alto Adige sotto il segno di una colonizzazione fallita. Penso che sarà interessante poi discutere approfonditamente sul significato di questa formula e di questa affermazione. Vi ringrazio e do la parola a Lucio Giudice Andrea. Quando ci si trova di fronte alle massime autorità della RAI, bisogna metterci sempre sull'attenti, perché rappresentano il quarto potere dello Stato e voi sapete cosa vuol dire il potere dello Stato? Essere o non essere nelle grazie di questi grandi tutori dell'informazione. Ha detto bene qui il nostro critico, posso usare questa parola, o presentatore? Critico. E facendo un po' il panorama della nostra situazione altoatesina, ha messo a fuoco, per non dire nella piena lucentezza delle tematiche di ogni vita quotidiana, come siamo messi. C'è una sinistra, c'è una destra, c'è un centro, centro che non decolla. Se guardiamo a destra litigano, se guardiamo a sinistra litigano, ed è chiaro che di fronte a un panorama di questo genere diventa molto difficile per i nostri concittadini dire che strada scegliamo, dove andiamo, con chi andiamo. Quindi giustamente uno che non ha le idee chiare verosimilmente si può dire che è uno spaesato. Però, come in tutte le cose, c'è sempre un però. Voi avete visto i risultati delle primarie, per esempio, è un po' di linfa vitale al governo Prodi. Resta il fatto che però i problemi della vita quotidiana non è che si dipannano, non è che vengono risolti. Chi è senza casa ha il problema della casa, chi è senza lavoro è perché gli manca l'occupazione, chi ha i problemi di sanità, chi ha i problemi con la scuola, chi ha i problemi con l'assistenza, cioè i cosiddetti problemi della vita quotidiana ce li portiamo comunque appresso e vorremmo risolverli, perché se non li risolviamo chiaramente cosa può dire il cittadino? Non fate niente, non siete capaci di fare niente, non producete niente e quindi a che cosa servono le istituzioni? Noi ci auguriamo che questo discorso possa concretamente avere una risposta, perché se viviamo sempre nella totale aritmia di quelli che sono gli equilibri della vita quotidiana, diventa sempre più difficile trovare una buona volontà, una decisione perlomeno, di trovare una soluzione. Ecco quindi che sicuramente Lucio, quando ha scritto questo libro, voleva far capire da una parte la situazione contingente della nostra comunità italiana in particolare, analizzando perché succedono queste cose, dicendo forse a chiare lettere se ci fosse più comprensione da parte del partito di maggioranza le cose si potrebbero risolvere in qualche maniera, vedi toponomastica, vedi immersione, vedi tutti gli aspetti della vita che si presentano alla ribalta della vita politica locale in questi ultimi tempi, ed è quindi come sempre la speranza che dobbiamo assolutamente con tutte le nostre energie metterci d'impegno per trovare dialogo e confronto, perché se non vogliamo più neanche dialogare e non vogliamo confrontarci, inevitabilmente si erigono muri e il muro vuol dire rifiuto al dialogo e al confronto. L'incultura nasce da queste cose. Come si spiegherebbe che questi giovani ragazzi salgono su una macchina, si imbottiscono di bombe sapendo che vanno a morire, che un pilota sale su un aereo sapendo che va a morire? Ma è possibile che non si pongano il problema? Non c'è un'altra soluzione al di là del terrorismo? Perché non possiamo discuterne? Perché non possiamo provare a dialogare? E questo perché se il rifiuto in tema di confronto e di dialogo permane e dura sempre più pervicace, è inevitabile che nasceranno contrapposizioni e dalle contrapposizioni le belligeranze, e Dio non voglia quello che segue dopo le belligeranze. Vi lascio questo messaggio. Non dimentichiamoci mai di volere perlomeno dialogo e confronto. Perché se questo piccolo proposito viene a mancare, non solo non c'è più cultura, ma non costruiremo nessun futuro per il nostro Alto Adige. E forse in questa ottica, ce lo dirà Lucio, potremmo immaginare di uscire da questo fatto di essere spaesati. Auguri, grazie per essere intervenuti così numerosi e soprattutto dalle parole di Lucio ascoltiamo il messaggio evangelico. Grazie. Grazie Assessore, io non sono portatore di nessun messaggio evangelico, né credo che il ruolo dell'informazione sia poi così importante, così decisivo. Grazie comunque. Grazie anche alla biblioteca per questo invito e per l'opportunità che mi dà di parlare di quello che ho scritto. Chi scrive un libro, insomma, non può augurarsi di meglio che poter parlare, poter soprattutto sentire l'opinione anche dei lettori, di chi legge, di chi ragiona su queste cose. No, solo per essere chiari, spaesati è sì un po' la nostra condizione. Io credo che questa sia la nostra condizione, nel senso proprio letterale del termine, cioè il paese nel quale noi viviamo, noi in fondo non lo sentiamo come nostro, non lo sentiamo, cioè non ci troviamo nel nostro elemento, non riteniamo che questa sia una così, insomma, siamo in parte, come dire, viziati da forti, grandi pregiudizi nei confronti del posto in cui noi viviamo. Ecco, spaesati perché siamo appunto italiani in Südtirol, come dice il sottotitolo del libro, e non c'è alcun intento polemico, almeno in questa parte, ma semplicemente la volontà di sottolineare che forse il nostro spaesamento, il nostro non trovarci a nostro agio qui, consiste nel pensare di poter continuare ad essere, nel continuare ad essere quello che noi ci immaginiamo italiani, in un paese, in una provincia che italiana non è, nel senso che appartiene all'Italia, ovviamente nessuno vuole mettere in discussione i sacri confini della patria, però tutti sappiamo che questa terra, questa provincia, la provincia di Bolzano, è caratterizzata da elementi culturali, storici, eccetera, che sono più vicini, diciamo, a un altro mondo, che è quello tedesco, austriaco, austro-ungarico, tirolese, e meno invece caratterizzato verso l'elemento italiano, che pure c'è, esiste e che ha anche una sua legittimità e legittimazione ad esistere. Mi ha molto colpito l'immagine che citava Gabriele, cioè la citazione di Kafka: un libro deve essere come un'ascia che colpisce il ghiaccio, che infrange il ghiaccio. Sì, più o meno è un po' così, diciamo. Io penso che ci sia nella maggioranza degli italiani che vive qui, in questa terra, uno strato di ghiaccio nei confronti di questa terra, che ci sia un pregiudizio nei confronti di questa terra, che ci sia una sorta di non identificazione con questa terra. E in questo senso, questo nostro spaesamento è, badate bene, l'esatto contrario di un concetto che invece è molto presente, molto diffuso, molto sentito nella popolazione di madrelingua tedesca, e cioè l'idea della Heimat, una parola della quale oltretutto in italiano non esiste traduzione, no? Gabriele, cioè esiste la nazione, il Vaterland, esiste la patria, ma la Heimat, termine con il quale si indica uno spazio anche piccolo, anche un paese, una valle, dove si è nati, dove si vive, dove ci si trova a proprio agio. Ecco, questa, così come non c'è forse una traduzione italiana di questa parola, non c'è neppure il sentimento da parte nostra di questa Heimat, di essere qui in questa terra, nella nostra Heimat, pur sempre nel posto dove siamo chiamati a vivere, dove sarebbe bene che vivessimo anche al pieno delle nostre energie, al pieno delle nostre possibilità e al pieno delle nostre potenzialità. Il pregiudizio non è anzitutto un pregiudizio politico. La maggioranza delle persone che vive in questa terra, in un certo senso, è convinta che questo sistema nel quale noi viviamo, questo sistema i cui principi sono dettati dallo statuto di autonomia, dal secondo statuto di autonomia, che ci sia qualcosa di marcio, qualcosa che non si può digerire, qualcosa che non va, qualcosa che bisogna cambiare. E non è, badate bene, una critica come può avere un bolognese nei confronti della gestione della sua regione. No, è proprio una riserva verso quel documento, verso quell'atto che costituisce il fondamento giuridico di questo sistema, cioè quell'atto, lo Statuto di Autonomia, che fissa l'attribuzione di certe competenze alla provincia, cioè alla rappresentanza politica locale, che fissa le procedure, che fissa una serie di regole che hanno a che fare anche con la convivenza tra i due gruppi. C'è, credo che difficilmente, insomma, mi si possa dar torto su questo, c'è un pregiudizio, c'è un'avversione diffusa verso questo sistema, e questa avversione è anche trasversale. Cioè, noi viviamo in una terra in cui i partiti della destra, il partito della destra, Alleanza Nazionale, oggi Unitalia, anche Forza Italia, in passato il Movimento Sociale Italiano, hanno riscosso un grandissimo successo elettorale, molto maggiore di quello che riscuotevano in altre regioni. Negli ultimi anni poi la situazione è cambiata, però diciamo si sapeva, no? Dagli anni 80, dalle elezioni comunali di Bolzano, credo 1984-85, MSI, primo partito di Bolzano, eccetera. Bene, questo partito, quest'area politica aveva e diceva chiaramente i suoi dubbi, le sue perplessità, la sua avversione nei confronti del sistema che qui si andava costruendo. E chi in un certo senso ha creduto in quel partito, nel messaggio di quel partito, adesso stiamo parlando di quello, ha creduto ed è vissuto in questa terra con l'idea di vivere in un luogo dove si attuavano delle cose fuori dal mondo. Vi ricordate? Perché dobbiamo imparare il tedesco? Vi ricordate? Oggi nessuno più, cioè oggi, non, oggi anche coloro che allora dicevano questo dicono no, bisogna imparare il tedesco, bisogna attrezzarsi per impararlo, eccetera. Però vi ricordate quando dicevano non bisogna imparare il tedesco perché siamo in Italia e perché non è giusto obbligare i cittadini di uno Stato a parlare un'altra lingua? Le persone che hanno creduto in questo messaggio ha fatto proseliti, come si dice, le parole sono pietre, le parole vengono dette e poi hanno degli effetti. Anche se a noi sembra che si possano dire tutte le parole di paragonare appunto il crollo di una guglia nelle Dolomiti all'11 settembre, che neanche io ho capito come sono arrivati a fare questa cosa, però le parole, anche se passano così, lasciano segni, lasciano tracce. La destra altoatesina ha coltivato, ha nutrito e coltivato una forte, una profonda avversione nei confronti del sistema politico che si andava realizzando in questa terra. La sinistra, anche la sinistra storica, poi sono stati diversi partiti, ma diciamo che anche il movimento di sinistra ha coltivato, pur avendo condiviso formalmente tutti i passaggi che hanno portato all'attuazione dello Statuto di Autonomia, la sinistra come del resto la Democrazia Cristiana, tutti i partiti dell'arco che allora si definiva costituzionale, esclusa la destra che veniva esclusa da questo arco costituzionale, tutti i partiti hanno votato queste misure, anche la sinistra le ha votate, però la sinistra le ha votate, secondo me, io ricostruisco questa sua storia, anche questa sua storia nel libro, le ha votate con una idea di fondo che rappresenta anch'essa in un certo senso una riserva, perché la sinistra ha sempre detto negli anni 60 e 70, quando la sinistra era avviata in Italia e anche qui a crescere il consenso tra la popolazione, la sinistra era come dell'idea che era importante sì regolare con uno statuto, con una costituzione locale il sistema, la convivenza tra i gruppi, ma che in fondo questo criterio della deregolazione non sarebbe stato così importante come un altro criterio che la sinistra riteneva più importante e più fondamentale. La sinistra pensava che la vera divisione che attraversa il corpo sociale fosse la divisione tra sfruttatori e sfruttati, tra ricchi e poveri. E quindi la sinistra era, nella sua ipotesi classica, convinta qui, come del resto anche altrove, come del resto anche in altre zone d'Europa, che le contraddizioni, che i contrasti tra gruppi linguistici o addirittura tra etnie si sarebbero un domani risolti in un contrasto più vero, che era quello tra chi viene nella società sfruttato e chi invece nella società appartiene agli sfruttatori. Non solo le vicende che sono accadute qui, ma anche le vicende che sono accadute molto più dolorose in altre regioni d'Europa, si sono incaricate di smentire questa ipotesi della sinistra. Le differenze di appartenenza a gruppi linguistici o di appartenenza a nazione contano, e come se contano, e contano più delle differenze di classe, come si è visto in molti episodi seguiti alla caduta del muro di Berlino e alla disgregazione del mondo comunista. A dispetto di quello che si definiva l'internazionalismo proletario, gli sfruttati italiani insieme con gli sfruttati tedeschi contro i padroni italiani alleati a loro volta con i padroni tedeschi, a onta dell'internazionalismo proletario questa cosa non è successa, e anche nel nostro piccolo qui in provincia di Bolzano i lavoratori tedeschi hanno continuato a iscriversi nella loro maggioranza al sindacato autonomo sudtirolese, Autonoma Südtiroler Gewerkschaftsbund, e gli operai invece appartenenti al gruppo italiano si sono iscritti e hanno militato nei sindacati confederali e poi in altri sindacati, come è avvenuto nel resto d'Italia. Poi c'è l'altra grande area politica, scusate, che è quella del centro, la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana negli anni 60-70 era un partito forte, potente. Oggi ciò che resta della Democrazia Cristiana elegge a stento un consigliere, naturalmente quel corpo ne elegge più consiglieri, quel corpo che votava lì, però diciamo nell'area che si può ricondurre alla Democrazia Cristiana, ecco, esce un consigliere provinciale. Negli anni 70 la Democrazia Cristiana è arrivata ad avere, Remo sbaglio, 5 consiglieri provinciali, la DC, negli anni 70. Tu taci. Credo che negli anni 70, se non sono 5, erano 4, ma insomma era un partito forte, potente, che aveva profonde radici qui come nel resto d'Italia, che aveva rapporti con associazioni culturali, sportive, e che esercitava nel bene e nel male la sua influenza su quello che era il corpo sociale, la società perlomeno italiana. Secondo me la Democrazia Cristiana, dunque diciamo così, che alla Democrazia Cristiana, a quell'area, non si può certo rimproverare di non avere sostenuto il sistema nel quale noi oggi viviamo. Lo hanno sostenuto, e lo hanno addirittura sostenuto a costo di una emorragia elettorale che ha praticamente dissanguato quel partito. Quindi sul piano, sia sul piano locale che sul piano nazionale, la Democrazia Cristiana con i suoi rappresentanti si è, come dire, incaricata di chiudere e di portare a compimento questa operazione, l'operazione di dare un'autentica tutela alla minoranza sudtirolese, e l'ha portata a compimento. Si era impegnata a farlo per firma del suo più grande leader del dopoguerra, Alcide De Gasperi, il quale nel 1946 a Parigi firmò un trattato con il ministro degli esteri austriaco Gruber, che era un trattato, e non bisogna mai dimenticarlo, che doveva garantire, porre i presupposti perché venisse garantita la tutela della German speaking minority, cioè non, diceva il documento, di tutta la popolazione residente in provincia di Bolzano, ma la tutela della minoranza che parla il tedesco. I ladini se li hanno scordati e li hanno tirati dentro dopo. Comunque se li ha scordati anche De Gasperi, sia Gruber che De Gasperi, tutti e due se li erano scordati. Impegnandosi a dare atto, a dare esecuzione a questo proposito, la Democrazia Cristiana, io dico, tirata per le orecchie, e i governi italiani a egemonia democristiana, io dico tirati per le orecchie da una risoluzione, anzi da due risoluzioni dell'ONU, hanno 23 anni dopo la firma del trattato De Gasperi-Gruber nel 1996 portato questo famoso pacchetto 69, portato questo famoso pacchetto di norme a tutela della minoranza tedesca in Parlamento e lo hanno approvato. Quindi alla Democrazia Cristiana questo non si può rimproverare. Si può invece rimproverare alla Democrazia Cristiana di avere fatto, secondo me, una politica che è un po' tipica di quel partito e che è la politica del moderatismo. La politica che dice che per prima cosa, quando c'è un problema, sapete cosa bisogna fare? Come prima cosa? Niente. Intanto non facciamo niente, perché, come noi sappiamo da tanti secoli, i problemi si aggiustano da soli e il tempo trova una soluzione per tutto, così diceva Caterina dei Medici, con una saggezza che penso solo noi italiani ci ostiniamo a considerare tale. Allora, prima di tutto non facciamo niente, anzi facciamo una regione nella quale la maggioranza spetta all'elemento italiano, tiriamo Bolzano dentro con Trento, così i miei trentini, sto chiaramente volgarizzando De Gasperi, i miei trentini sono garantiti, hanno una loro autonomia, e gli italiani dell'Alto Adige ci pensiamo noi. Mi è capitato di parlare durante gli incontri e le presentazioni del libro con più persone che conoscono De Gasperi molto meglio di me, però nessuna di queste persone mi ha saputo citare una riga, una frase, una considerazione di Alcide De Gasperi che fosse dedicata agli italiani dell'Alto Adige. Cioè De Gasperi pensava ai suoi trentini e i trentini gli hanno fatto un monumento e sfruttano tutte le occasioni per sostenerlo. Io penso che De Gasperi abbia portato molto alla sua terra, ma a noi, io credo sinceramente di poter dire che De Gasperi non ha neppure pensato. La Democrazia Cristiana ha fatto una politica intanto di moderatismo, non facciamo niente. Poi è stata presa per le orecchie, i governi italiani sono stati presi per le orecchie, sono stati trascinati davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite. Tra il resto, nel libro scritto da Alcide Berloff agli anni del pacchetto, c'è un episodio molto sintomatico a questo proposito. Berloff era allora, siamo nel 1961, un deputato democristiano e gli capita di ricevere a Fiumicino il ministro degli esteri italiano, che se non sbaglio era Segni, che era di ritorno dall'Assemblea delle Nazioni Unite, e Segni disse, lo dice Berloff nel libro, Alcide, figure del genere non le voglio più fare. Così l'Italia è stata, io dico, presa per le orecchie e invitata a fare quello che doveva fare. E poi c'è stato da parte della Democrazia Cristiana una sorta di paternalismo. Anche il paternalismo è l'altra faccia del moderatismo. Non facciamo niente. Se proprio dobbiamo fare qualcosa, lo faccio io, tu non pensare. Penso io per te. Decido io quel che va bene per te. Questo partito che era così forte, che era così articolato, che era così presente a livello locale e anche a livello nazionale, ha evitato, secondo me, questo è il torto politico che io penso si possa attribuire, mentre da un lato ha fatto quello che andava fatto, ha evitato di dirlo, ha evitato di comunicarlo, ha evitato di rendere partecipe la gente, il suo elettorato e chi girava in questo partito, non solo della inevitabilità di ciò che qui si doveva fare, perché l'Italia è stata, come ho già detto, costretta da due risoluzioni dell'ONU a fare quel che doveva fare, quindi non solo della inevitabilità, ma magari forse anche della opportunità. Guardate, signori, che qui stiamo costruendo un sistema di autogoverno e forse questo autogoverno può andare bene. Forse anche noi, se ci rimbocchiamo le maniche, se ci diamo da fare, possiamo trovare il nostro spazio in questo autogoverno, il nostro posto in questo autogoverno. La Democrazia Cristiana non lo ha fatto, perlomeno non lo ha fatto con l'energia che avrebbe avuto, con le idee che avrebbe avuto, perché è stato il partito che poi lo ha accompagnato questo processo, e si è invece, come dire, ha invece contato un po' troppo, secondo me, su un'altra famosa massima della politica italiana. Il potere logora chi non ce l'ha. Vedete come sono furbo io? Mica il potere logora chi ce l'ha. Il potere logora chi non ce l'ha. Guardiamo come sono finiti a furia del potere che rogola, che logora chi non ce l'ha, il potere. E quindi io dico, nel trattare in un capitolo che si intitola Il mite e i furbi, nel trattare le vicende della Democrazia Cristiana, concludo dicendo che anche questa battaglia non fatta, anche questa battaglia non combattuta per l'autonomia, per la sua opportunità, può fare delle vittime. Poi ci sono, stiamo parlando del pregiudizio che anima la maggioranza degli altoatesini di lingua italiana, ci sono delle ragioni culturali che hanno a che fare con la cultura. E io individuo due elementi che sono essenzialmente la scuola e l'informazione. L'informazione, il giornalismo, non ha, secondo me, saputo produrre altra immagine di questa terra in tutti questi anni che quella di una terra chiusa, dove le montagne impediscono lo sviluppo di grandi visioni, dominata dalla cultura in braghe di cuoio, dove non c'è spazio per la ricerca, il confronto, eccetera, dove ci hanno preso più o meno e bastonato, o preso e chiuso in gabbia. E io dico che questa immagine non è stata sostenuta solamente da quella parte politica, cioè la destra, che esplicitamente pensava queste cose. Cito e discuto, come ricordava Gabriele, anche quello che allora un libro accolto con grande discussione, con grande, per certi versi, entusiasmo e anche con grandi critiche, Sangue e Suolo, di Sebastiano Vassalli, un intellettuale italiano per il resto molto apprezzabile. Ha scritto un bellissimo romanzo raccontando la storia di una strega, La Chimera si intitola, e lo cito perché in quel romanzo Vassalli è riuscito a fare l'operazione esattamente contraria a quella che ha fatto qui. In quel romanzo a mano di una storia del Cinquecento, di una ragazza bollata come strega, ricostruito tutto il meccanismo di esclusione, di emarginazione, come nasce il pregiudizio che fa sì che il diverso diventi un criminale. Questo meccanismo sottile di pensiero lo ha smascherato. Mentre è venuto qui, è stato qui alcune settimane e ha sposato questa immagine del sangue e suolo. Sangue e suolo, Blut und Boden, le due parole d'ordine, insomma, come dire, dell'ideologia nazista. Nazista. Infatti c'è un passaggio del suo libro, che io cito, dove lui presenta una cartolina che ha ritrovato durante le sue peregrinazioni, sulla quale si vede una famiglia sudtirolese. E di questa famiglia dice c'è il nonno, c'è il papà, ci sono i figli. Non so se c'è qualcun altro. Il nonno assomiglia a Cecco Beppe, il papà assomiglia a Göring. Il papà assomiglia a Göring e i figli assomigliano a quelli che nei film del nazionalsocialismo facevano la parte dei giovani ariani. Eccolo qua. Allora, una cartolina che rappresenta la visita di un approssimativo zio Adolfo, c'era anche quello, a una famiglia in costume tirolese. Compaiono in fotografia da sinistra a destra persone di tre generazioni. C'è il nonno che assomiglia all'imperatore Francesco Giuseppe, c'è il padre che assomiglia al maresciallo Hermann Göring, ci sono i figli ventenni, maschio e femmina, che assomigliano ai giovani interpreti dei film nazisti sulla razza. La madre non c'è, deve essere in cucina. Noi siamo brillanti, no? Quindi noi finiamo le nostre annotazioni con una cosa brillante, perché così gli diamo un tocco ulteriore. Bene, dopo aver preso i tirolesi, averli sbattuti lì e averli paragonati a una banda di nazisti, ci si dice ancora, poi le donne chiaramente non è che sono evolute come da noi in Italia, sono in cucina relegate, eccetera, eccetera. Ecco, a fare i canederli. Una cosa che si commenta da sé, però indicativa, perché questo era quel che dicevo prima, cioè un intellettuale di sinistra, che aveva fama, che ha fama di essere intelligente, lucido, eccetera, eccetera. Questo è il quadro che è stato dato all'Italia. È un libro che ha raccontato l'Alto Adige al resto d'Italia. E poi c'è la scuola, le cui responsabilità, secondo me, ma poi la scuola è un tema attuale, le cui responsabilità, secondo me, sono enormi.